in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Scusate ancora, come ho già chiesto, chiedo scusa come ho già chiesto durante la rassegna stampa europea, per la voce e un po' di, appunto, influenza di malanno stagionale. E cominciamo dalla Sole 24 Ore, come sempre, che è forse l'unico giornale a non titolare su questo ennesimo possibile scontro tra l'Italia e l'Unione Europea, perché il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato in realtà alla più importante notizia economica di ieri, che è quella del dato sul PIL americano, che è cresciuto sì, ma solo tra virgolette, perché comunque, per esempio, per la zona euro e per l'Italia in particolare sarebbe già un successone, solo dell'1,6%, e questa è la crescita minima dal 2011. Poi ci sono molti approfondimenti sull'incontro di cui avete sentito tra il nuovo presidente Donald Trump e la premier inglese Theresa May. Poi naturalmente in prima pagina c'è anche la questione delle regole dell'Unione Europea, però ripeto, non è il titolo principale. In edicola oggi con il Sole 24 Ore c'è Plus, come sempre ogni sabato. La copertina è dedicata a quella che viene definita l'eredità della crisi 10 anni dopo. Infatti sono passati più di 10 anni quasi dall'inizio di quella crisi economica che tutti identificano con il crack di Lehman Brothers nel settembre del 2008. In realtà era iniziata già prima, e quindi il titolo: rendimenti, fiducia e fisco, gli elementi che hanno pesato sulle scelte di risparmio delle famiglie italiane. Il Corriere della Sera, foto notizia di Donald Trump e Theresa May, con una cronaca di Giuseppe Sarcina, asse sulla Brexit, perché Donald Trump è stato forse il capo di governo e di Stato che con più chiarezza ha detto, e tra l'altro anche considerando il peso naturalmente di una dichiarazione del genere, ha detto con più chiarezza che la Brexit è una cosa fantastica per il Regno Unito. E quindi, appunto, il titolo dell'articolo di Giuseppe Sarcina: Trump e May, asse sulla Brexit. Però il titolo principale, se vogliamo, è dedicato appunto al possibile nuovo scontro con l'Unione Europea. I timori di Padoan, il nostro ministro delle finanze, se l'Unione Europea, dell'economia e delle finanze, se l'Unione Europea ci sanziona, il problema è grave. La Repubblica ha a sua volta una foto di Donald Trump con Theresa May. Sia quella del Corriere che quella della Repubblica sono foto che, insomma, colgono qualcosa dei due leader, sono entrambi molto sorridenti. E in quella del titolo di Repubblica però è Italia e UE scontro sulla manovra. La fotonotizia è a centropagina con l'articolo di Federico Rampini, corrispondente dagli Stati Uniti di Repubblica: Trump-May, nasce la nuova coppia. Anziché puntare fin dal titolo sulle dichiarazioni sulla Brexit, Repubblica sceglie invece di sottolineare quello che si sono detti i due leader sull'ISIS, e sono d'accordo, sembrano concordare su una stretta sull'immigrazione di islamici. La Stampa: alleanza Trump-May, insieme batteremo i terroristi dell'ISIS, quindi anche in questo caso già nel titolo un focus su questo tema, quello del terrorismo. E però nel sommario, il presidente americano: la Brexit è meravigliosa. La fotonotizia invece è dedicata a un'inchiesta della Stampa che è sulle assegnazioni delle case in affitto agli immigrati, un'inchiesta svolta a Torino e a Milano, intitolata "L'immigrato cerca casa ma trova solo strani no. Il canone richiesto agli immigrati può lievitare anche del 30% rispetto a quello di mercato". E trovate questa inchiesta alle pagine 10 e 11. Vi voglio però leggere il buongiorno di Mattia Feltri, che da qualche giorno ha preso il posto di Massimo Gramellini in questa rubrica quotidiana, perché Massimo Gramellini, che se l'era inventata, anche se ha spiegato che il titolo gliel'aveva suggerito l'allora direttore della Stampa Marcello Sorgi. Massimo Gramellini è andato al Corriere della Sera, e quindi la Stampa, il direttore della Stampa attuale Maurizio Molinari, ha deciso di affidare questo spazio in prima pagina a Mattia Feltri, che lo dedica oggi alla Giornata della Memoria, che è stata ieri, e devo dire oggi sui giornali c'è pochissimo. Forse ogni anno, tristemente, si riducono gli spazi per la cronaca di questa Giornata della Memoria, che, lo ricordo, la giornata per ricordare la Shoah. Il titolo del buongiorno di Mattia Feltri è "Figlio nazista non ti avrò". Sarebbe stato bello se ieri, lungo la giornata della memoria, qualcuno avesse ricordato con affetto Bettina Göring, nipote di Hermann Göring, il feldmaresciallo, il numero due del Reich di Adolf Hitler, il morfinomane, l'eroe della prima guerra mondiale al fianco del barone rosso, il criminale della guerra successiva. Hermann era lo zio e padre adottivo del padre di Bettina. Non c'è nemmeno tutto questo sangue in comune. Bettina è nata nel 1956, 10 anni dopo il suicidio con cui il nonno sfuggì all'impiccagione dopo il processo di Norimberga. Appena diventata adulta, se n'è andata dalla Germania e dall'Europa, via, lontano dalla terra del disastro. L'hanno rintracciata nel 2009 a Santa Fe, New Mexico, dove vive in una comunità e pratica la medicina alternativa. Si è lasciata intervistare e ha spiegato che di figli non ne ha, per scelta. E per paura che la scelta non bastasse, che il destino o la sorte le giocassero uno scherzo, a 30 anni si è fatta sterilizzare. Mi sono sentita responsabile delle azioni della mia famiglia, quindi mi sono sentita responsabile della Shoah. Sono diventata sterile per non creare altri Göring. Come sono incredibili i paradossi della vita. Bettina ha cercato così fermamente di allontanarsi dal nonno che ha finito per sbattergli addosso. Lui credeva nelle razze e che le razze cattive perpetuassero il male che hanno dentro. Lei non ha voluto perpetuare il male che credeva di avere dentro di sé. Il Messaggero, la sfida all'Unione Europea agita il governo, quindi anche il Messaggero, stesso schema degli altri quotidiani. Anche in questo caso una fotonotizia dedicata a Trump e May, e qui il titolo proprio principale secco è Brexit, che meraviglia. Vi segnalo, per chi magari se lo fosse perso, ieri è intervenuto a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, l'articolo di Giulio Sapelli, l'economista Giulio Sapelli, parla anche di questo, parla anche di quello che succederà nei rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito e soprattutto tra Stati Uniti e Unione Europea. I nuovi muri americani favoriranno solo la Cina, questo secondo Giulio Sapelli. Avvenire, Conti, l'Italia non cede e rischia l'infrazione naturalmente alle regole dell'Unione Europea, questo è il titolo principale, ma la fotonotizia, anche qui lode all'Avvenire che continua a dare la cronaca di quello che sta succedendo in centro Italia, la fotonotizia è dedicata all'Abruzzo in particolare. Abbandonati sotto la neve, l'Abruzzo protesta, sono ancora tantissime le case senza elettricità e con strade bloccate e con, sappiamo, per il doppio motivo, da una parte il terremoto già dell'estate e poi le scosse di 10 giorni fa e poi naturalmente questa ondata di maltempo anomala che ha investito il centro Italia. L'Unione Europea va da vedere i terremotati, perché uno dei temi delle argomentazioni che ha usato Gentiloni, il premier Gentiloni, ieri per rispondere a questo preallarme sui conti italiani che veniva da Bruxelles, era: rendetevi conto che all'Italia quest'anno è successa questa tragedia, cioè le ripetute tantissime scosse di terremoto a partire dall'estate. Ma vi segnalo, perché il contatore dell'unità segna meno 4 al giorno in cui ci sarà il consiglio di amministrazione che dovrà decidere o per un aumento di capitale della società dell'unità o per la sua messa in liquidazione. E un breve intervento del comitato di redazione, che è il sindacato interno di un qualsiasi giornale, che riporta delle parole fortissime pronunciate ieri dall'amministratore delegato della società che possiede l'unità, cioè l'unità SRL. Questo signore si chiama Guido Stefanelli e durante un'assemblea in cui la si pensi come voglia naturalmente su l'opportunità che si rifinanzi l'unità, che l'unità resti in edicola, sul dispiacere che si prova quando un giornale chiude, qualsiasi tipo di giornale, e soprattutto la si pensi come vuole sui confronti tra nelle vertenze sindacali, ma io queste parole non le avevo mai sentite pronunciare. E le parole sono queste: quando la scure si abbatterà su di voi, la morte avrà la mia faccia. Così ha detto Guido Stefanelli, amministratore delegato dell'unità, a un membro del comitato di redazione che gli chiedeva un incontro. E scrive il comitato di redazione, appunto, a questo siamo precipitati, a un degrado ignobile non solo delle relazioni sindacali, ma di quelle umane. Questo è il clima avvelenato a 4 giorni dal 1 febbraio, quando l'assemblea dei soci dovrà decidere, come vi dicevo, la ricapitalizzazione o la messa in liquidazione del giornale. E tra l'altro in questo piccolo intervento, appunto in prima pagina dell'Unità, si annuncia anche che domani l'Unità non sarà in edicola. E vi segnalo la fotonotizia dell'Unità, questa è una notizia che io qualche giorno fa avevo visto in agenzia o forse su qualche giornale straniero, riguarda lo Yemen. E il titolo è La strage dimenticata. Pensate, in questo paese che anni fa era stato finito molto spesso nelle cronache perché era molto pericoloso andarci per turismo, si rischiava il rapimento a scopo di riscatto. In Yemen oltre 2 milioni di bambini rischiano di morire di fame. Il paese denuncia l'ONU, non una ONG qualsiasi, è a rischio carestia a causa dell'escalation del conflitto, perché continua a esserci una guerra civile all'interno dello Yemen. I 2/3 della popolazione hanno bisogno di aiuti umanitari. L'emergenza cibo sta colpendo oltre 18 milioni di abitanti. Ci lasciamo un attimo però per la pausa per il traffico e ci ritroviamo subito dopo con le prime pagine dei giornali che ancora ci mancano. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. All'ascoltatore che mi chiede dove l'articolo di Giulio Sapelli inizia sulla prima pagina del Messaggero, e all'altro ascoltatore che mi dice sono già 5 minuti che parli e non hai ancora parlato male dei 5 Stelle. Prima risposta, non provo alcun gusto nel parlare male dei 5 Stelle, lo ripeterò fino alla nausea. Credo anzi di non parlarne mai male, leggo spesso dei titoli e questo basta ad alcuni ascoltatori, simpatizzanti o esponenti del Movimento 5 Stelle per dire che ne parlo male. Veniamo al Fatto Quotidiano, che ha un titolo diversissimo perché prende spunto da alcune dichiarazioni del capo della polizia Franco Gabrielli di ieri. Mancano poliziotti, li trovate a casa di Alfano, Maroni and Company. Ci sarebbero infatti molti poliziotti che sono dedicati ai vari ministeri o per esempio alle regioni come la regione Lombardia e poi magari non riescono invece, non si trovano gli uomini per fare per assolvere altri compiti. Libero, Roma si mangia l'Italia, lo Stato aumenta i finanziamenti alla capitale sull'orlo del crack, sapete che Roma è di nuovo sull'orlo del crack, togliendo risorse a tutti gli altri comuni. Il giornale Italia fuori dall'euro, il dossier scuote il potere, questo è uno scoop del giornale, così viene definito dallo stesso giornale, perché ci sarebbe questo documento firmato da importanti istituzioni finanziarie che appunto sosterrebbero, come anche altri hanno sostenuto prima, che l'uscita dall'euro dell'Italia in particolare non sarebbe poi così grave. La Verità è un titolo ancora diverso, si concentra su un'altra grande inchiesta aperta e che credo ci vorrà ancora molto tempo per chiudere, che è quella sull'Expo, l'appalto che puzza di bruciato, un'altra tegola sul sindaco di Milano. È intervenuta, infatti, la novità è dell'ultima ora, è che è intervenuta l'autorità anticorruzione di Cantone perché ha sollevato pesanti dubbi sul contratto per il rivestimento del Padiglione Italia. Ultimo, prima pagina, poi vi segnalo qualche articolo dall'interno dei giornali. Il manifesto, in questo titolo, sapete sicuramente che il manifesto cerca sempre titoli a effetto, magari mettendoli a contrasto con la fotografia tutta pagina è anche in questo caso di Donald Trump e Theresa May, presa però come se si fosse dal basso, e il titolo, e io francamente questa volta non lo capisco, è Gli scambisti. Scambisti di cosa? Naturalmente sarebbero gli scambi commerciali, ma perché ricorrere così a questa semplificazione? Questa volta davvero mi sfugge. Comunque la spiegazione in parte è nel sommario. perché c'è stata questa dichiarazione di rafforzare i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ed è di fatto quello, il manifesto lo definisce un patto anti-europeo siglato tra la premier britannica Theresa May e Donald Trump. Forti divergenze restano però, lo sottolinea il manifesto, sui rapporti con il presidente Putin e quindi con la Russia, sulle torture, perché forse ricorderete che Donald Trump qualche giorno fa, interrogato sull'opportunità di non sanzionare le torture, non ufficialmente, quindi anche di modificare la legge che è in vigore in questo momento negli Stati Uniti, che considera appunto la tortura un reato, Trump ha detto tranquillamente che la tortura serve. E a questa dichiarazione Theresa May si era sentita di rispondere subito nel giorno in cui Donald Trump l'aveva fatta, e ha ribadito ieri a Washington che la posizione del Regno Unito è molto diversa. A proposito di scambi e di conseguenze delle nuove politiche economiche di Donald Trump, a pagina 4 del Sole 24 Ore un lungo articolo di Gianluca Di Don Francesco con uno schema che spiega molto bene di che cosa stiamo parlando. Il titolo è Dazi Boomerang per gli Stati Uniti. Nello scambio di beni, Cina, Germania e Giappone hanno i surplus più alti del Messico. Una guerra commerciale solo, tra virgolette, con Cina e Messico metterebbe a rischio quasi 5 milioni di posti di lavoro americani. E poi la consueta pagina di Sport e Business che più di due mesi ormai esce al sabato e alla domenica sul Sole 24 Ore, oggi dedicata al calciomercato. Tra sogni e affari, il calciomercato vola. Dal 2012 al 2016 il volume d'affari dei trasferimenti internazionali, di calciatori naturalmente, è arrivato a 4,8 miliardi con una crescita del 74%. E per chi comunque approfondisce o segue, magari anche solo così per interesse o per interesse proprio perché ha investito in azioni, vi segnalo l'articolo di pagina 32 di Walter Riolfi, la consueta analisi del nostro collega di finanza sui mercati. I mercati trascurano il rischio azionario, perché questo titolo per Bank of America, per gli analisti di Bank of America, si sta avvicinando alla fine di un ciclo borsistico positivo, come sappiamo, che dura da 8 anni, ma forse c'è ancora tempo. E Walter, come ogni sabato, analizza quello che è successo nell'ultima settimana con i vari indici delle varie borse e anche settoriali. Dal Corriere della Sera un bell'articolo di Carlotta Clerici nella sezione del Corriere della Sera che si chiama Tempi Liberi, che esce al venerdì e al sabato. C'è questo grande tema della capacità di dire no. Si sono esercitati molti psicologi, si è parlato di assertività. Ora questo articolo di Carlotta Clerici prende spunto da alcuni libri, anche quello di sull'ordine proprio fisico, sull'ordine mentale, quindi di dire di no alle cose, possiamo dire, che è pubblicato da una scrittrice giapponese che si chiama Il magico potere del riordino, la scrittrice Marie Kondo. Però si può anche appunto dire fare ordine mentale. Allora, come si fa a dire no? L'arte del riordino diventa mentale, alcuni trucchi per decidere che cosa ci interessa veramente nella vita. Il nuovo metodo si chiama Not Sorry, funziona così. Poi una bella storia dalla Repubblica, la rivoluzione dei ragazzi che si riprendono le campagne. La terra a chi la coltiva. In Veneto entrano in vigore le norme che consentono di recuperare gli ettari abbandonati. E i numeri sono, ripeto, secondo me molto, è quasi una storia da si può fare, ecco. 50.000 gli under 35, aziende agricole condotte appunto da contadini che hanno meno di 35 anni. Quelli under 40 invece sono addirittura oltre 1 milione. 7.569 le start-up che sono state avviate nel 2016. Il 2% però della superficie coltivabile del Veneto è a rischio degrado, e questo 2% equivale a 810.000 ettari che non sono stati curati da oltre 10 anni. Un'intervista che ci dà l'idea di quanto il Partito Democratico sia davvero diviso, perché è una un titolo che tra l'altro si riferisce a una risposta data in questa intervista da Enrico Rossi, presidente della Toscana e candidato segretario del PD, quando appunto ci sarà il congresso e si vedrà se Renzi verrà riconfermato. Il titolo di questa intervista è "Cerca la rivincita", detto di Matteo Renzi, "è come un giocatore di poker disperato". E tra l'altro è contrario a votare subito. Rossi dice sarebbe drammatico votare adesso. Un'altra bella notizia dalla stampa, pagina 15, Sanremo è nata Itala, la margherita ecologica dedicata a Calvino. Sapete che Italo Calvino aveva una grandissima passione per il giardinaggio e quando questo fiore, che è nato senza aiuti chimici, appunto è stato intitolato a lui. Un tocco di poesia, insomma, in questo sabato un po' grigio. Il supplemento della stampa, tutto libri in edicolo ogni sabato, la pagina principale si focalizza sulla Turchia e in particolare sull'ultimo libro di Ahmet Altan, che è in carcere, tra l'altro è uno dei tanti intellettuali arrestati dopo il fallito golpe del 15 luglio. Un'ultima segnalazione ve la faccio dal Messaggero, che è l'unico giornale che mette questa notizia in prima pagina e poi l'approfondisce a pagina 10. La Duma, ieri, il Parlamento russo, ha approvato una nuova legge con il via libera del 99% dei deputati, che depenalizza le violenze in famiglia, non saranno più reato. Siccome la maggior parte delle violenze in famiglia sono a danno di donne e bambini, il titolo di molti giornali è non sarà più reato schiaffeggiare la moglie. In casi molto gravi, in cui si creano dei gravissimi danni fisici a moglie o figli, verrà data una multa. Questa è l'ultima notizia che viene dalla Russia di Putin. Era però appunto l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, appuntamento domani circa le 7:15.